Vi saluto, vi do il benvenuto, buonasera a tutte le signore, a tutti i signori, benvenuti alla biblioteca provinciale che è ospitata in questa sede provvisoria, un po' piccola, vi invito ad avere un po' di pazienza, ma nel 2017 avremo una sede meravigliosa, quindi verrà premiata la pazienza, la costanza e la fedeltà. Ora, noi ogni settimana organizziamo iniziative di vario genere, sempre comunque legate in qualche misura al territorio. Possono essere presentazioni di libri, dibattiti oppure anche proiezioni di documentari. Questa sera, di solito la giornata deputata è il lunedì sera alle 18, però abbiamo anche la seconda chance che è giovedì, quando il nostro calendario è particolarmente fitto e vogliamo, ci teniamo ad alcune iniziative. Questa era una di quelle iniziative che volevamo riproporre, perché in realtà il documentario è già stato presentato in numerose occasioni nel corso di questi ultimi anni. Non qui, e ci tenevamo ad averlo qui, e ringrazio per questo appunto Giovanni Perez, giornalista che conoscete dell'Attualige, e Lionello Bertolli, presidente della sezione AMPI di Bolzano. Ora, è un documentario che è stato una lunga ricerca anche nei filmati luce, ed è una ricostruzione interessante di un periodo particolarmente intenso della storia locale, per cui anche in occasione della ricorrenza, siamo proprio in coincidenza con il periodo e il momento in cui questi episodi che verranno illustrati sono accaduti. Qualcuno di voi volesse approfondire l'argomento, le tematiche che questa sera vengono così mostrate attraverso il documentario, può anche rivolgersi alla nostra biblioteca, che ha un patrimonio bibliografico di oltre 50.000 volumi già catalogati, altri 30.000 sono in attesa di catalogazione, e non è tutto quello che vedete qui, perché in realtà in questa sede abbiamo solamente un terzo del nostro patrimonio, anzi quasi un quarto. Il restante, la maggior parte dei nostri volumi sono in un magazzino, ma chi avesse bisogno di qualche documento, noi lo procuriamo velocemente. Ringrazio ancora i nostri ospiti, ai quali cedo subito la parola. Mi rendo conto che mancano dei posti a sedere, in qualche modo adesso cerchiamo una sedia per qualcuno ancora e ci organizziamo. Buona serata intanto, grazie. E grazie ancora della vostra partecipazione. Cari signori, siccome l'età avanza e la memoria cala, mi avvalgo di qualche appunto. Dunque, sarò abbastanza breve. L'idea di questo documentario era nata perché mi ero reso conto che non esistevano in pratica documenti filmati su quanto era accaduto in Italia nelle ultime settimane di guerra, e in particolare il ruolo che aveva avuto la nostra provincia, l'Alto Adige, in quei giorni di inizio maggio del 1945. Poiché sono convinto che le documentazioni scritte sono senz'altro importanti, ma poco seguite, soprattutto dai giovani di oggi, abituati come sono alla televisione e alla civiltà delle immagini, avevo pensato ad un documentario. Le ricerche, che avevo abbastanza complesse, che avevo condotto, mi avevano portato all'archivio dell'Istituto Luce di Roma, il quale disponeva di parecchi filmati che provenivano dagli Stati Uniti e che erano catalogati tra i combat film. Cioè, era del materiale che avevano firmato i Cine Reporter al servizio delle truppe americane e che aveva girato anche in Alto Adige. Altro materiale lo avevo trovato presso l'archivio storico dell'ORF di Vienna, che gentilmente me l'aveva ceduto, naturalmente dietro pagamento. Quello dell'Istituto Luce era stato un pagamento molto pesante, perché hanno chiesto 220 euro al minuto di filmato. A questo punto avevo sottoposto l'idea all'assessorato provinciale alla cultura e lingua italiana, che aveva approvato il progetto e finanziato un DVD. Il costo, come potete immaginare, era stato abbastanza sostenuto, e quindi di fronte a questi costi si era concordato con la provincia che la lunghezza del documentario doveva rientrare in circa 30 minuti, quindi in una spesa notevole, perché c'era naturalmente anche le spese di montaggio e via dicendo, la provincia aveva ritenuto che questa somma poteva essere affrontata. A questo punto naturalmente mi sono trovato di fronte a un problema, che dovevo scegliere delle immagini che rientrassero nei 30 minuti, quindi non è che potevo utilizzare tutte quelle che erano a disposizione, ma avevo scelto quelle che a mio giudizio, che poi penso che fosse anche il più oggettivo, che riguardavano i più importanti avvenimenti accaduti in Alto Adige e che in parte erano conosciuti, però non in maniera molto ampia. Doveva essere lo spunto per chi aveva interesse, dopo aver visto le immagini, ad approfondire gli argomenti che avevo trattato. Proseguendo, fatto il filmato, mi è venuta l'idea di fare altre ricerche, questa volta però negli Stati Uniti, perché presso il National Museum di Washington sono conservati tutti questi combat film, e lì, per fortuna, non chiedono neanche una lira dei diritti, bisogna solo pagare una certa cifra per il riversamento dal formato americano nel formato europeo, cioè in PAL, il che richiede una spesa ma non così spaventosa. E pensate che per 2 ore circa il costo assommava a 1500 euro. Tutto questo materiale l'ho sfruttato per un secondo documentario che è già pronto, ma che non posso mandare in onda, come si suol dire, perché sono sorti problemi con la CIA. La CIA ha cambiato le regole, imponendo delle regole molto pesanti. Ad esempio, se si tratta di foto, di filmati, bisogna avere l'autorizzazione di chi ha i diritti di quelle foto, di quel filmato. Il che sembra semplice, ma poi non lo è in definitiva, perché avevo accompagnato il filmato con delle musiche degli anni 30-40. Ora, andare a trovare chi possiede i diritti di quelle musiche è un'impresa praticamente impossibile. D'altra parte la CIA non vuole sapere niente, dice: tu devi portarmi le dichiarazioni di chi ha la liberatoria, di chi ha composto la musica e poi le parole di ogni singola canzone, e sono alle prese appunto con questa difficoltà, anche se il DVD in pratica è pronto. Ma poi avevo inserito un paio di brevi filmati dove c'erano dei riferimenti a dei film del 1945, i primi proiettati a Bolzano. Tanto per fare un esempio, Serenata Valle Chiara, che forse i più anziani di voi ricordano. Ecco, per quei filmati mi chiedevano 4.000 euro per ogni minuto o frazione di minuto, quindi è impossibile spese da affrontare. Comunque, quando sarò pronto, spero presto, e il cui titolo di questo DVD sarà Alto Adige 1945-1948, spezzoni di storia, e si tratta un po' di tutto quello che avveniva in quel periodo in Alto Adige, tutto, naturalmente quello che era possibile trovare come filmati, che erano pochissimi, e come foto, che non sono neanche così abbondanti, ho inserito quelli, e il filmato, quando sarà pronto, verrà presentato anche qui. Ecco, io mi auguro che questo documentario vi piaccia, e con ciò credo di aver concluso. È una minaccia a vuoto, perché stasera non ve lo facciamo vedere, perché dura un'ora, sì, quello di stasera dura 31 minuti Sì, il prossimo dura in totale un'ora. Io devo dire, devo solo ringraziare un giornalista, perché l'AMPI ha bisogno, per proteggere la memoria, di costruire strumenti, e uno degli strumenti che abbiamo costruito è questo DVD, che ci riporta a un momento della nostra storia della liberazione, che per noi è molto importante. Abbiamo proiettato questo film in parecchie scuole anche della provincia, l'abbiamo proiettato l'ultima volta, che l'abbiamo proiettato in un posto meraviglioso, se avete occasione di andarci, è meraviglioso, affascinante, che è il sotterraneo di Fortezza. Fortezza è un contenitore meraviglioso per cose di questo genere, con una sonorità meravigliosa, un coro ci hanno fatto una nuova edizione di Bella Ciao apposta per noi, e hanno cantato dentro in questo contenitore, che è veramente una cosa splendida. Questa è stata l'ultima presentazione che abbiamo fatto di questo, ma dicevo che voglio ringraziare, l'ho già fatto altre volte, ma lo voglio ringraziare anche stasera, il giornalista, perché ci ha aiutato molto, l'ha aiutato molto l'AMPI nella produzione dei suoi strumenti. Questa sera noi lo consideriamo un'opera di informazione, come abbiamo fatto stamattina. Stamattina, voi forse non lo sapete, ma stamattina dalla Spezia è venuto un grande pullman con 50 studenti, accompagnato dalle istituzioni, eccetera, e è venuto a visitare i resti del lago di Bolzano. E ieri, in anticipo rispetto all'orario, che mi hanno fatto fare una corsa, quindi non ho potuto avvertire un greche, le persone, sono arrivati da Piacenza, sono arrivati 120 studenti, i rappresentanti di tutti gli istituti, di 11 istituti superiori della provincia di Piacenza, sono venuti a Bolzano prima di visitare il lago di Mauthausen. E io sono felice, perché la dimostrazione intanto che viene reso omaggio a una città alla città di Bolzano, che ha avuto una grossa ferita e una grossa offesa dal lago di Bolzano, ma che poi premia anche l'attività che l'AMPI può fare. Quindi vedete con piacere, con attenzione, il documentario di questa sera. Siamo disponibili per tutte le domande che vorrete fare. Integreremo qualche cosa del film, perché evidentemente nel film non ci può essere tutto, lo sa ben qualcuno, non ci può essere tutto, e noi integreremo quello che manca al film, per rendere tale filmato un documento vero e proprio di quella che è stata la liberazione e la fine della resistenza anche in provincia di Bolzano. Vi ringrazio. E adesso ci spostiamo e vediamo il film, che non abbiamo mai visto. Una delle cose che il giornalista non ha detto, il matto è costato, ma il giornalista non è costato niente. Un attimo, perché il 18 aprile. Ma non è partito. No, infatti, non so perché non è partito dall'inizio. Ah, ti raccomando, adesso arriviamo. Forse arriviamo. Un attimo. Fate con bombardamento. Infatti. Ok. Ecco, che vorremmo esserci. Thank you. da un aeroporto situato a 16.000 Tunisi decollano 100 quadrimotori B-17, le famose forchette volanti. Ieri fanno parte del 31° gruppo da bombardamento pesante. Dopo aver sorvolato il Mediterraneo, il Tirreno di Parigada, 76 B-17 puntano sul loro obiettivo, Trento. La città fanno cadere 167 tonnellate di bombe. Viene centrata la stazione, ma bombe cadono anche su parecchie case vicino alla ferrovia, provocando diversi morti. B-17 proseguono invece per Bolzano. Sono le 11.55 quando lanciano sulla città quasi 43 tonnellate di bombe. Sono gravemente danneggiati viale Trento, via Garibaldi, piazza Verdi, il teatro. Colpita anche la stazione ferroviaria e di numerosi convogli di passeggeri e merci che vi sostano. Il raid degli aerei americani ha uno scopo preciso, colpire la linea ferroviaria del Brennero per cercare di rallentare l'afflusso delle forze armate germaniche dirette ad occupare l'Italia in vista della sua capitolazione che verrà annunciata l'8 settembre. Dopo 9 mesi dallo sbarco in Sicilia, gli alleati hanno raggiunto gli Appennini dolcevigliani. Il 14 aprile del 1945 lanciano l'offensiva finale per superare la linea gotica e dilagare nella pianura padana. La quinta armata americana passa all'attacco sui fronti centrale di Renco, dove i tedeschi hanno schierato la 14ª armata. Una battaglia molto dura vista la difficoltà del terreno montuoso. Costerà molte vite umane sia agli alleati che ai tedeschi che hanno schierato le loro truppe migliori. Gli americani comunque continuano ad avanzare tra i punti di macerie dei paesi distrutti dalle cannonate e dai bombardamenti aerei. I potenti carri armati americani aprono le strade della fondovalle alla fanteria che li segue. Il 18 aprile, superata Vergato, la 10ª divisione della montagna USA sparaglia il 14° corpo corazzato tedesco catturando circa 3.000 prigionieri. I tedeschi sono a corto di carburante, senza più rifornimenti, a lucrarli anche la guerriglia partigiana che vuole vendicare le stragi di civili perpetrate dall'SS nell'autunno precedente in vari paesi degli Appennini, tra i quali Mazzabotto. Durante l'occupazione il Comitato di Liberazione Nazionale di Longon si era dedicato soprattutto ad attività di propaganda e all'assistenza agli internati dell'Agria. E tutto questo gruppo era stato arrestato alla fine del 1944 e quindi era cessata l'attività partigiana nella provincia. Nell'aprile del 1945 da Milano viene inviato Bruno De Angelis, che sarà il primo prefetto nel maggio, e De Angelis riesce ad inserirsi nelle trattative tra i comandi tedeschi e gli alleati. Il 20 aprile i reparti della quinta armata americana superano Casalecchio a pochi chilometri da Bologna. Le montagne sono ora alle spalle, la resistenza tedesca si fa sempre meno ostinata. L'ottava armata britannica, già all'offensiva sul fronte adriatico contro la 10ª armata tedesca, converge a sua volta velocemente verso Bologna. Il 21 aprile le truppe polacche del generale Anders e i gruppi di combattimento italiani, Legnano e Friuli, entrano nel capoluogo emiliano, travolgendo la prima divisione paracadutisti tedesca. Ad accoglierli una gran folla ai lati delle strade che applaude al passaggio dei carri armati. Applausi anche ai soldati americani che arrivano poco dopo. Finalmente per i bolognesi è giunto il giorno della liberazione. Proseguendo con l'avanzata, il 23 aprile, i soldati della quinta armata americana arrivano sulla sponda del Po. Il grande fiume viene superato con grossi mezzi antichi prontamente arrivati dalle retrovie. Costruiscono un ponte di barche presso Guastalla. Ora possono passare anche i carri armati, nonché i rifornimenti indispensabili per proseguire l'offensiva verso la Val d'Adige, che gli americani temono sia stata fortificata dai tedeschi. Tutti i ponti sul Po erano stati distrutti nei giorni precedenti dagli attacchi aerei alleati e quindi le divisioni tedesche di retroguardia non hanno scampo e devono arrendersi. L'avanzata della quinta armata verso Verona prosegue celermente tra gli applausi della popolazione. Una parte delle truppe alleate si è intanto diretta verso Trieste. Qui vediamo gli americani che superano un ponte su Bisonzo, vicino a Gorizia. Vorrebbero arrivare a Trieste prima degli jugoslavi, ma non ce la faranno. Il 25 aprile l'88esima divisione della seconda corpo della quinta armata americana entra a Verona, mentre in tutta l'Italia settentrionale il comitato di liberazione nazionale invita i partigiani di insurrezione. Verona reca i segni dei violenti bombardamenti dei mesi precedenti. I binari e la stazione ferroviaria sono praticamente distrutti. Nelle strade della periferia della città ci sono ancora i sanguinosi segni degli scontri che si sono appena conclusi. Un'ultima linea di resistenza viene organizzata dai tedeschi sulle due sponde del lago di Garda a sud di Riva. Il cannoneggiamento degli armamenti sulla strada bresciana ha ben poco effetto e numerose gallerie offrono un riparo sicuro. Sulla sinistra, prima di Torbole, l'avanzata si arresta perché i tedeschi hanno fatto saltare una galleria bloccando la statale. Il 30 aprile, un mezzo anfibio americano con 25 soldati a bordo viene centrato dall'artiglieria tedesca. L'anfibio era diretto da Navena alla residenza di Mussolini a Garniano, sulla sponda opposta. Il 29 aprile il colonnello della Wehrmacht Victor von Schweinitz per il generale von Tittinghoff e il maggiore dell'SS Max Werner per il generale Karl Wolff si recano a Caserta. In abiti borghesi, in una gelida atmosfera, firmano la resa incondizionata delle truppe tedesche in Italia, che viene fissata per le 14 del 2 maggio. Si conclude così una lunga trattativa segreta iniziata nel febbraio-marzo precedente in Svizzera. Anche sul fronte nord gli alleati avanzano inarrestabili. Il 2 maggio il 6 corpo della 7ª armata americana, proveniente dalla Baviera, ha raggiunto la periferia di Innsbruck e si incontra con le truppe francesi che sono avanzate dal Vorarlberg. Alla guarnigione di Innsbruck viene intimata la resa. Il movimento di resistenza capeggiato da Karl Gruber, futuro ministro degli esteri, decide di uscire allo scoperto, anche se può schierare solo pochi uomini. I comandanti della Wehrmacht non reagiscono, perché sono consapevoli che tutto è perduto. Dopo qualche scontro con le SS nel pomeriggio del 3 maggio, la città è in mano agli uomini di Gruber, i quali invitano la popolazione ad esporre alle finestre la bandiera americana e quella tirolese. Superato il terrore di una possibile repressione, molti cittadini di Innsbruck si uniscono al movimento di resistenza. Verso le 20 di quel 3 maggio, i soldati della 103esima divisione di fanteria della 7ª armata americana entrano in città. Per la prima volta da quando sono in un territorio di lingua tedesca, con grande sorpresa, trovano ai lati delle strade una gran folla che li applaude. La cessazione ufficiale dell'ostilità di Innsbruck avviene il giorno dopo, 4 maggio, quando i comandanti della 19esima armata tedesca si presentano al comando della 44esima divisione americana per firmare l'atto formale di resa. Sul Garda il 3 maggio gli ultimi resti dell'ottava divisione germanica si arrendono o si ritirano verso l'Alto Adige. Per Bolzano quel 3 maggio sarà però un giorno di sangue. Mentre la guerra finiva e molte città del nord erano già state liberate, in Alto Adige ci furono vari fatti di sangue. Il 30 di aprile a Merano un corteo che sfilava per le vie cittadine con il tricolore fu perso a fucilate con il bilancio di 9 morti e vari feriti. A Bolzano, la mattina del 3 maggio, vi furono scontri che costarono la vita a una quarantina di vittime tra partigiani e civili, e questo quando già la tregua era entrata in vigore. Preoccupati per possibili sacche di resistenza da parte di alcuni reparti tedeschi, ignari della resa o decisi comunque a resistere, gli americani il 3 maggio decidono di utilizzare dei piccoli aerei per lanciare sulla frontiera autoadrice dei manifestini che informano sulla firma della fine della guerra in Italia. Rotte di indugio il 4 maggio, gli americani dilagano in Alto Adige. Alcune unità nel pomeriggio raggiungono il Brennero, dove si incontrano con le truppe del generale Patton della Terza Armata, alle quali era stato ordinato di bloccare la ritirata delle truppe germaniche dall'Italia. Fa freddo e il Brennero è imbiancata da un'americana caduta durante la notte. Informati della presenza in fusteria di un gruppo di prigionieri eccellenti, i soldati del 339° reggimento di infanteria comandati dal colonnello Stevens, dell'88° divisione, raggiungono nel pomeriggio il grande albergo sul lago di Braies. Si trovano 140 altre personalità di 22 paesi che i nazisti avevano arrestato. Tra gli ostaggi Kurt Schussnigg, ultimo cancelliere austriaco, con moglie e figlioletta, Leon Blum, presidente della Francia, Nicolas Calai, presidente del Consiglio dei Ministri inglesi, Peter Churchill, nipote di Winston Churchill, Vasily Molotov, nipote dell'allora ministro degli esteri dell'Unione Sovietica, Paolo Badoglio, figlio del maresciallo d'Italia. Tre levanti dei vari campi di concentramento erano stati portati in Valbusteria, probabilmente su ordine di Himmler, che voleva usare gli ostaggi come merce di scambio con gli alleati. Temendo per la loro sorte, era intervenuto l'allora prefetto di Bolzano, Tinzel, che aveva pregato il generale Fittingbo di inviare in busteria un reparto della Wehrmacht che esautorasse SS e Gestapo dalla vigilanza degli ostaggi. L'11 maggio un aereo americano trasporta a Napoli gli ex ostaggi di nazionalità germanica o austriaca. Nel gruppo donne e bambini, familiari di ostaggi eccellenti o di coloro che erano stati implicati nell'attentato a Hitler del 20 luglio 1944 ed uccisi. Gli altri ostaggi di varia nazionalità vengono rimandati a casa. Da Napoli vengono trasportati a Capri con un traghetto speciale. Ospiti di un albergo e personalità più in vista iniziano lunghi colloqui con funzionari e politici americani. Gli esperti sondano la loro affidabilità e la loro opinione sul futuro assetto da dare ad Austria e Germania. Ma in quei primi giorni di maggio l'Alto Adige riserva altre sorprese. Sempre su indicazione del generale dell'SS Karl Wolff, gli americani si recano a San Leonardo in Passivia. Quando aprono il portone della vecchia presura, trovano accatastati in due grandi stanze centinaia di capolavori trafugati dai tedeschi a Firenze. Durante il lungo viaggio in camion su strade sconnesse a causa dei bombardamenti, alcune opere risultano danneggiate. Sul quadro del Rubens, ritorno di contadini da lavoro, appare una vistosa piazza di tela nuda. Era sparito il cielo azzurro. Tra gli altri parte del capolavoro di San Donato vi sono due famosissimi quadri di Luca Strana, Adamo ed Eva. Hitler aveva ordinato di portarli in Germania, ma poi li aveva fatti riportare in Italia. In un'altra stanza dei politici del 300 e del 400. Il secondo deposito di opere d'arte razziate dai tedeschi in Italia, gli americani lo trovano a Campo Tules, nell'antica residenza all'imbocco del paese. Accatastati vi sono centinaia di quadri di grande valore e su dei ripiani molti oggetti d'arte d'antiquariato sottratti agli ebrei italiani. Riporta a Firenze tutte le opere d'arte recuperate a San Donato e Campo Tules. Trasferite dei vagoni ferroviari sui camion, le opere d'arte percorrono le vie di Firenze. In piazza della Signoria trova una folla che acclama la cerimonia della consegna. Ecco la Madonna con il Bambino di Murillo, ora alla Galleria Pitti, ed il ritratto di Carlo V di Van Dyck, ora agli Uffizi. Importante scoperta anche a Fortezza. Gli americani recuperano nel vecchio forte un grosso deposito di armi. Il generale dell'SS Karl Wolff, che pensa solo a salvare la pelle, racconta che dietro una porta blindata del forte si trovano 23 tonnellate d'oro. È l'oro che i tedeschi avevano sottratto alla Banca d'Italia a Roma nel dicembre del 1943. L'oro ritorna a Roma una decina di giorni dopo. Fortemente scontati, il 14 maggio, i camion carichi dei vari lotti delle casse d'oro raggiungono la capitale e sfilano per via nazionale. Della Banca d'Italia, ma è solo una parte delle 117 tonnellate sottratte dai tedeschi. Nei giorni successivi alla cessazione delle ostilità si pone il problema di sequestrare le armi ancora in possesso dei soldati germanici. Per quanto riguarda Bolzano, si inizia con il recupero delle armi leggere, appartenenti ai militari, ricoverati presso le caserme di Via Tuso, allora trasformate in ospedale. Diversamente da quanto era accaduto nel resto d'Italia, ove contestualmente alla resa i soldati tedeschi consegnavano le armi, in Alto Adige erano affluiti molti reparti equipaggiati con tutte le loro armi che avevano mantenuto anche dopo la firma della resa. Possibile questa massa di armi, gli americani allestiscono dei punti di raccolta. A Bolzano, per le armi leggere, viene individuato nell'ex scuola di specializzazione militare della GIP in Viale Trieste, di fronte al Lido. Per accelerare al massimo il recupero delle armi, vengono mobilitati anche dei soldati della Wehrmacht. Viene invece utilizzato per ammassare una grande quantità di armi pesanti da distruggere. Mitragliere antiaeree, bombe, cannoncini, munizioni varie affluiscono con ogni mezzo. Reichenau alla periferia di Innsbruck, l'ex campo di rieducazione del lavoro viene ora utilizzato come campo di raccolta per i profughi. Arrivano e si affollano nelle baracche i profughi delle più varie nazionalità, fuggiti o evacuati a forza dalle zone di guerra dove si era combattuto a sfralite. Molti russi che avevano seguito le truppe tedesche in ritirata saranno rimpatriati coattivamente. A Reichenau arrivano anche le avanguardie di circa 700.000 soldati italiani internati dai nazisti dopo l'8 settembre nei vari Stammlager sparsi per tutta la Germania. Ai reduci si aggiungono i superstiti dei lager e migliaia di lavoratori volontari ora strellati in Italia dopo il 1943 e costretti a lavorare in Germania. Malconci, molti in precarie condizioni fisiche, arrivano a Reichenau con i loro poveri stracci, a piedi o a bordo dei camion americani. Tutti hanno un solo pensiero, ritornare a casa. La linea ferroviaria della Brennero è distrutta. A trasportare gli italiani da Reichenau a Bolzano sono i camion militari americani. Un primo giorno questi disperati lo trovano dai padri domenicani di Cristo e dalla popolazione. Allora, i primi reduci che io ho visto è stato nel periodo fine aprile, un mese di aprile, quindi dovevamo passare queste persone che erano abbastanza malridotte, magrissime, scheletriche, che delle volte si sedevano su marciapiedi e aspettavano che qualcuno le aiutasse e non visti morire, quindi anche, perché è stato raccapricciante, hanno la forza di arrivare in Italia. Poi quando sono arrivati in Italia non hanno niente, il loro organismo ormai cede. Mano a mano che passano i giorni, gli arrivi si fanno sempre più numerosi, tanto da richiedere una ben più complessa organizzazione. Centro assistenza rimpatriati cominciano ad operare presso l'ex ospedale militare a fianco della chiesa di Cristo Re. Poiché i camion, come gli ex internati, arrivano in ogni ora del giorno e a volte anche di notte, si allestiscono una mensa e dei dormitori. Ma la valanga dei reduci aumenta ancora, tanto da registrare gli arrivi giornalieri pesano di 10.000 reduci. Per far fronte all'emergenza si utilizzano le caserme di Galle d'Uso. Soffocati dal gran numero di rimpatriati in continuo arrivo, si fa sempre più pressante la necessità di far proseguire il loro viaggio verso i paesi d'origine nel più breve tempo possibile. La Bolzano passa una richiesta d'aiuto, la Pontificia opera di assistenza a tutti i partigiani, alcuni stabilimenti della zona industriale di Bolzano e di altre città del nord Italia, nonché organizzazioni varie, mettono a disposizione del personale per assistere i reduci e delle vecchie corriere con le quali riportarli a casa. Rimane per molte settimane in piazzale distante dalla chiesa di Cristo Re, dove i reduci sono raggruppati per destinazione. Anche gli americani danno la mano mettendo a disposizione i loro camion. decretò riattivare la linea ferroviaria della Brennero a molti punti distrutta. A questo scopo vengono utilizzati anche i prigionieri della Wehrmacht che facevano parte dei reparti ferroviari. Giornalista, va al suo posto. se qualcuno ha qualcosa da chiedere, siamo qua. Prego. Volevo dire questo, che il centro raccolta che lei ha pubblicato, il CAR, sì, qui è, ha visto lei? Era troppo piccolo, quindi sì, è stato trasferito alla Uber. Ecco, ma, ecco, le volevo spiegare, le ho spiegato che i tempi erano quelli, erano strettissimi, quindi dovevo fare una scelta tra i vari argomenti. Quella parte che lei dice viene trattata nel secondo DVD che ho preparato, ma che ancora non posso farvi vedere. Grazie. Perché ci sono altre domande? Episodi che qui non risultano, ad esempio gli americani che arrivano al confine svizzero di Tubre e altre cose che naturalmente richiedevano un tempo maggiore, ma in 30 minuti quel che è stato possibile l'ho messo assieme. Una delle cose che non appare è che Bolzano aveva anche un problema dal 30 aprile 1945, che dentro il lager ci stavano 3.500 internati nel lager, e quindi questi sono stati allontanati un po' alla volta e accompagnati, perché era difficile liberare Bolzano da 3.500, e per quei 3.500, per quelli che rimanevano, le acciaierie di Bolzano soprattutto e anche altre aziende hanno messo in piedi una mensa in modo da poterli far mangiare prima che uscissero e potessero essere avviati verso casa. Prego. Io lavoravo all'acciaieria, quindi mangiavano questa gente, veniva a mangiare al tavolo con me. Ogni giorno era pieno di loro, il giorno dopo sparivano, arrivavano degli altri. E arrivavano lì alla Montecatini, alla Lancia, venivano ricevuti e poi andavano in giù con i carri, perché la ferrovia non andava, perché a Ora o non so dove. Quindi oltre tutti quelli che sono stati nominati, che venivano, provenivano dal Brennero, venivano dagli Stalag, se erano internati militari o venivano dai campi di concentramento, avevamo anche i detenuti, gli internati nel lager di Bolzano, che alla che doveva contenere solo 1.000-1.200 persone, ma alla fine, al 30 aprile, ne conteneva 3.500. È stato un problema anche per gli stessi giannizzeri che stavano dentro il lager di allontanare 3.500 persone. Io volevo ricordarvi ancora una cosa di cui ci vantiamo, come si è parlato degli ostaggi di Villa Bassa, 134 ostaggi, che dice 140, 134, e fra gli ostaggi c'era anche il generale Sante Garibaldi e un sudtirolese, Franz Haberer, che era cantoniere di Villa Bassa, ha salvato dalla prigionia il generale Sante Garibaldi e il colonnello che lo accompagnava. Era un sudtirolese morto poi giovanissimo, uno dei partigiani della Brigata Calvi, perché la disputa è se la Brigata Calvi ha operato per la liberazione degli ostaggi. Evidentemente ci sono stati interventi anche molto altolocati da parte dello stesso generale Vechtingo, che stava qui, che aveva paura per la sua pelle e quindi ha cercato di salvare gli ostaggi, ma anche la Brigata Calvi è intervenuta, che operava nel Cadore verso Cortina, è intervenuta per salvare gli ostaggi, come ha salvato i resti dell'archivio nazionale, che stavano, seguivano le sorti degli ostaggi a Villa Bassa. E ancora una cosa, una delle cose che un mio iscritto, che si chiama Brunetti, Matteo Brunetti, nome di battaglia Bruno, che era l'operatore della missione Vital, una missione radio che si è collocata sul massiccio del Brenta e doveva trasmettere per Bolzano e per Trento. Mentre andavano a piazzare la missione Vital il 4 agosto 1944, passavano il libretto, la FLAC sparava e ha battuto il libretto, è caduto a poche distanze di loro un paracadute. Non dovevano guardarlo perché c'erano i tedeschi col binocolo che li stavano guardando mentre salivano a mettere la radio sul massiccio del Brenta. Invece un altro bolzanino, che si chiama Enrico Pedrotti, nome di battaglia Marco, ha fatto "el tolo el su", è andato in un cespuglio dove questo aviatore era precipitato, e allo friend, e se ne sono portato dietro, e si è portato dietro l'aviatore che si chiamava Lee Palser, era di New York, aveva 23 anni, se lo sono portati dietro nella caverna dove hanno sistemato la radio che doveva trasmettere a Bari, perché Matteo Brunetti, Bruno, il mio iscritto di Udine, veniva, era stato paracadutato da Bari sulla riva del Piave. Appena hanno trasmesso, tutti hanno disteso l'antenna della radio e hanno trasmesso a Bari, che avevano salvato un aviatore americano. La risposta è stata: voi dovete trasmettere notizie, non raccogliere aviatori. Che Lee Panzer è rimasto con la missione vitale dentro nella caverna sul massiccio del Brenta dal 4 agosto fino alla vigilia di Natale. La vigilia di Natale la radio si è interrotta. Matteo Brunetti in bicicletta è tornato in quel di dove operava la sua brigata, e Lee Panzer è stato consegnato ai parenti di Enrico Pedrotti, che l'hanno consegnato agli americani. Bizzarro e tondo, grasso come un tordo, all'8 maggio, quando sono venuti a Bolzano. Lee Panzer, il giovane di New York, è stato consegnato agli americani sano e salvo dai partigiani della Val di Non agli americani a Bolzano l'8 maggio. E questa è la nostra storia. Quando io la racconto ai giovani che vengono fuori, dicevo: guardate, tutto questo è stato, ma tutto questo ha fruttato un grande impegno di patto di popolo che è la nostra Costituzione. Tutto questo sacrificio è stato messo con orgoglio dentro la Costituzione. E quando stamattina i giovani sono arrivati alle 11, li ho lasciati andare a mangiare all'una e mezzo, sono arrivati alle 12, sono arrivati in ritardo, e per punirli che erano arrivati in ritardo li abbiamo tenuti davanti al muro del lago fino alle 13:30, raccomandandoli che quando andavano via, che dovevano studiare perché abbiamo bisogno di tutta la loro intelligenza, ma che proprio perché studiavano dovevano pretendere il loro futuro, perché il loro futuro era stato ammesso da quel sacrificio nella nostra Costituzione. Per questo siamo venuti questa sera a farvi vedere il film. Voi non avete bisogno di queste sollecitazioni, ma voi siete depositari di tutti i nostri ricordi. La prossima volta veniamo con un'ora di filmato, preparatevi quando l'avremo finito di pagare, perché ci mancano ancora finanziamenti per 2.500 euro. Se non riesco a farmi dare da qualche istituzione, dovrò far batter cassa, chiederò una petizione popolare per 2.500 euro per terminare il filmato. Quindi aspettatevi che l'Ampi vi chieda un po' di soldi per completare il filmato. Grazie tante.